Belavez è un progetto di welfare di comunità. È un progetto che prova a prendersi cura degli anziani, di provare a rispondere ai loro bisogni e soprattutto di promuovere l'invecchiamento attivo attraverso un protagonismo e attraverso anche la costruzione di momenti culturali e di socialità all'interno dei nostri circoli. È un progetto che si svolge già da alcune settimane all'interno del circolo Benassi, è un progetto sostenuto dalla Fondazione del Monte e che prevede appunto il coinvolgimento di diversi soggetti culturali e soggetti che si occupano più dell'aspetto socio-assistenziale, proprio per provare a, da una parte, costruire dei momenti di aggregazione e di socialità e di cultura nel post-pandemia, dove sappiamo che gli anziani sono tra le fasce più colpite, costrette all'isolamento e alla solitudine, e dall'altra provare a costruire un presidio più di prossimità per, in qualche modo, provare a prendersi cura degli anziani su un aspetto più socio-assistenziale, quindi provare ad intercettare i loro bisogni, provare anche a lavorare in un'ottica preventiva per fare in modo che per tempo possano anche essere, per esempio, intercettati dei loro bisogni o delle loro necessità. E quali sono le realtà che collaborano con questa iniziativa? Allora, innanzitutto la cooperativa Cadiai, che appunto insieme a noi fa parte di questa equipe multidisciplinare e si occuperà appunto più della parte socio-assistenziale. Poi ci sono tante istituzioni culturali della città, c'è il settore biblioteca del Comune di Bologna, c'è il Teatro Arena del Sole, c'è la Cineteca di Bologna, quindi delle istituzioni culturali con i quali abbiamo provato a costruire un progetto che prevede appunto un protagonismo anche dal punto di vista culturale degli anziani. Gli anziani saranno coinvolti in alcune gite, andranno a visitare la biblioteca Renzo Renzi, andranno a visitare la mostra di Pasolini, faranno un aperitivo al Teatro Arena del Sole e conosceranno appunto dall'interno il teatro. Ci saranno delle occasioni anche di incontro nei prossimi mesi, sono già cominciate, in cui gli anziani, anche attraverso un archivio fotografico in bianco e nero della Cineteca di Bologna, costruiranno la loro memoria della città. Insomma, tanti momenti culturali ai quali appunto si affiancherà uno sportello coordinato dalla cooperativa Cadiai, che proverà a dare assistenza, formazione e informazione alle famiglie, agli anziani, quindi anche ai caregivers, proprio in quell'ottica che dicevo prima, un'ottica di prevenzione del disagio e di forme anche degenerative che sappiamo colpire gli anziani della nostra città, che continuano ad avere un'età sempre più, essere sempre più longevi. E quale sarà la durata di questo progetto? Questo progetto ha una durata di un anno, è già partito, come dicevo, ci saranno diversi incontri nelle prossime settimane, però la nostra idea è quella di considerare questo progetto comunque un progetto pilota che vorremmo comunque sviluppare e diffondere in tanti altri nostri circoli. Noi siamo un'associazione molto radicata sul territorio che ha più di 130 basi associative e un terzo di queste sono frequentate dagli anziani, e quindi io credo che sia nostra responsabilità quella di prenderci cura come comunità degli anziani e quindi di favorire assolutamente un loro invecchiamento che sia il più attivo possibile.